Spice, Sanctus, Sanctus Dominus. Bentornati amici di Radio Cage. E soprattutto amiche di Radio Cage. E soprattutto seguaci di Testa o Croce Show. Esatto, cultisti di Testa o Croce Show. La trasmissione che dice tutto quello che bisogna sapere su una religione. A volte. Qui mi hai fregato, Vince. Bene, diciamo. Io sono Vince, tu sei il. Non lo sai, no. Facciamo la trasmissione insieme. Sono il Gab. Grandissimo. E questa è la quarta puntata, chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati alla quarta puntata? Forse qualcuno si augurava di no. Di no, infatti. Però siamo qui. Sì. Ringraziamo anche Fede, che è come al solito il nostro angelo custode alla console. E ricordiamo che il nostro show parla di religione. Per chi non l'avesse ancora capito, o per chi si fosse sintonizzato su Radio Cage per la prima volta, per ascoltare noi, diamo questa ferale notizia. Che parliamo di religione. E vorremmo non monologare, insomma, non parlare solo noi di religione, ma parlare con voi. Quindi fatevi sentire. L'indirizzo email è testocroceshow@gmail.com. Altrimenti abbiamo il nostro blog, che è testocroceshow.blogspot.com, dove potete lasciare commenti, dove saltuariamente metteremo anche parte del materiale di cui abbiamo discusso in puntata. Sì, o novità. Sì. E infine abbiamo il contatto Skype per chattare con noi anche durante la trasmissione, che è testocroceshow, e basta che ci aggiungiate appunto su Skype. Esatto. Bando alle ciance, passiamo al domandone esistenziale di oggi. Come sapete, noi a ogni puntata facciamo un domandone, una marzullata, vi chiediamo di riflettere con noi su un argomento. Ma non così senza motivo, c'è un motivo molto importante, ma si vince anche un premio. Si vince anche un premio, sì. Che noi assegneremo ogni 4-5 puntate, sì. Come va, insomma. Tirando monetine a caso. Sì. Poi vedrete, il modo di scegliere il vincitore sarà fantastico, avverrà in diretta, quindi tutto trasparente. Sì, certo, perché si vedrà ovviamente, si sentirà dal rumore della moneta che lanciamo, se è venuto fuori testa o croce, quindi non possiamo assolutamente. Ma se qualcuno viene qui sotto forma di OBE, Out of Body Experience, giusto, no, che è anche il modo, ricordiamo, con cui potete ritirare il premio, anzi, dovete ritirare il premio, sì. E questo la domandone esistenziale di oggi. Ricordiamo il premio in palio, direi. A questo ricordiamolo, punto. Sì. Che è un viaggio per due persone nel Valhalla. Nel Valhalla. Che è un bel posto. Sì. Introduciamo il domandone di oggi con una segnalazione, invece che dirla l'ultima, diciamo subito. A Udine, alla libreria Odos, via Baldissera 56, domani, venerdì 18 novembre 17:30, ci sarà l'incontro con il sociologo Valerio Pocar. Etica atea, bisogna credere in un Dio per avere un'etica? Ecco, se avete un po' di fantasia avete già capito qual è il domandone di oggi, però abbiamo una... Il domandone di oggi è dov'è Udine? No, e bisogna credere in un Dio per avere un'etica, cioè perché molto spesso ci viene detto, no? O comunque viene lasciato pensare che l'etica dipenda dal credere in un Dio. Sì, beh, anche uno dei punti centrali del romanzo dei fratelli Karamazov, dove l'assenza di Dio viene ritenuta una giustificazione a quel punto per poter fare qualunque cosa, cioè uno che ritenga che non esiste alcun Dio può fare qualunque cosa perché non c'è una punizione, Quindi, ma comunque voi diteci cosa ne pensate, qual è la vostra opinione. Esatto, ma appunto abbiamo un'altra freccia da scoccare, no? Che è un passo di un libro che prego Gab di introdurre. Dunque, da adolescente nel Canada, orgogliosamente pacifico dei romantici anni 60, credevo ciecamente nell'anarchismo di Bakunin e ridevo di quello che mi dicevano i miei genitori, che se il governo avesse mai abbassato le armi sarebbe scoppiato l'inferno. Le nostre opposte predizioni furono messe alla prova alle 8 di mattina del 17 ottobre 1969, quando la polizia di Montreal entrò in sciopero. Alle 11:20 fu rapinata la prima banca. A mezzogiorno, la maggior parte dei negozi del centro avevano abbassato le sare cinesche a causa dei saccheggi. Nel giro di poche altre ore, alcuni tassisti diedero fuoco al garage di una società che con le sue limousine aveva loro conteso i clienti per e dall'aeroporto. Un cecchino appostato su un tetto uccise un agente di polizia della provincia, diversi hotel e ristoranti furono presi d'assalto e un medico uccise un ladro penetrato nella sua casa nei dintorni della città. Al termine della giornata erano state rapinate 6 banche, saccheggiati centinaia di negozi, appiccati 20 incendi, infrante un numero di vetrine da riempire 40 vagoni ferroviari e provocati danni alle proprietà per 3 milioni di dollari. Alla fine, per riportare in ordine, le autorità cittadine dovettero far intervenire l'esercito e, naturalmente, la polizia a cavallo. Vabbè, siamo nel Canada, quindi... Sì, beh, che c'entra. No, vabbè, questo è un passo di Tabula Rasa, libro di Steven Pinker, psicologo e divulgatore scientifico, citato da Richard Dawkins nel libro L'illusione di Dio. E Dawkins si chiede, al di là degli aspetti sociologici e politici, ma questa gente probabilmente la maggior parte era credente, credeva in Dio, aveva quindi un'etica religiosa. Possibile. E però sì. si è scatenato ugualmente il putiferio. Quindi la domanda appunto è: bisogna credere in un Dio per avere un'etica? L'etica atea esiste oppure esiste soltanto l'etica religiosa? E se sì, in quale Dio? In quale? Beh, certo. Eventualmente, questo se volete aggiungere. Se volete aggiungerlo, qualcosa. Diteci in quale Dio garantisce la migliore etica. Direi che passiamo la parola alla musica e questo lunedì Blob ha mandato un fantastico montaggio di Berlusconi delle ultime immagini. Chi è costui? Tu forse non lo conosci perché non segui ho rimosso questi ultimi 20 anni. Ecco, appunto, è un meccanismo di autodifesa. Comunque Blob se lo ricorda, ha fatto questo montaggio con sotto Ritornerai, la canzone di Lauzi, assolutamente geniale. Noi vorremmo omaggiare le dimissioni di Berlusconi con un brano di... Io voglio omaggiare la dimissione di Berlusconi. Io festeggio privatamente, senza tanti, insomma, sbrilluccichi. Ecco, insieme a te non ci sto più, Battiato. La tenerezza non vuole nessun Bentornati. Siamo di nuovo in studio. Oggi è il giovedì 17 novembre, si celebrano i santi Acisclo, Florin, Agnano d'Orlean, quindi auguriamo a tutti gli amici che si chiamano Acisclo, Agnano e Florin. Florin, sì. Tanti auguri di buon onomastico. E passiamo subito a dire che oggi è la giornata del gatto nero. O che significa? Significa che, beh, come tutti sappiamo, il gatto nero si attira su di sé gatto nero. No. ora spieghiamo. Si attira su sé una credenza superstiziosa, no? E fin dal Medioevo pare che il motivo sia, anzitutto, che i gatti neri erano considerati più abili nel catturare i topi, per questo motivo venivano spesso messi a bordo delle navi pirata. Quindi se si vedeva un gatto nero voleva dire che si aveva a che fare con una nave pirata. Che bello. Anche sulla spalla, portavano anche sulla spalla i pirati, se non sbaglio, no? Sì, e parlavano poi. Sì, sì. E il colore nero era messo in relazione con una dimensione diabolica e con le streghe, perché di notte il gatto nero era poco visibile e faceva paura ai cavalli che si imbizzarrivano, mettendo a rischio coloro che li cavalcavano. Però va bene, ovviamente nella società di oggi, non essendoci più i pirati, o almeno... Ci sono da qualche parte, per esempio, ricordiamo in Somalia, e questo, sì, esatto. Come dicevamo la scorsa puntata, sono tornati, e questo è legato a Flying Spaghetti Monster. Comunque, sostanzialmente non ci muoviamo più coi cavalli, quindi quella ragione è un po' caduta. Sì. E vabbè, quindi l'AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha istituito una giornata per la tutela e la dignità del gatto nero. E appunto il giorno è questo, 17 novembre. Allora, il motivo qual è? Intanto 17, che è un numero che rappresenta ovviamente la sfortuna, questo lo sapete tutti. Per fortuna oggi è giovedì, non venerdì, altrimenti non andavamo in onda, infatti, sì, vi annuncio questo. E di novembre perché? Perché di novembre novembre è il mese in cui vengono uccisi più gatti neri. Più mici neri, sì. Questo non capisco il motivo, ma... Perché passa Halloween, credo. Subito dopo Halloween, sì. Cioè non servono più, giustamente. Esatto, sì. Però sì. I topi ci sono sempre, vabbè. Se sono veramente così abili, consiglio a chi ha dei topi di comprarsi un bel gatto nero. Comunque l'AIDA organizza delle ronde. Delle ronde per salvare questi gatti neri. Sì. Quindi, una cosa molto encomiabile. È una cosa tipo un po' leghista, però in questo caso difende i neri anziché incolparli. Difende i neri, bravo. Cosa fanno? Ora, la sera vanno dove sanno che ci sono molti gatti randagi e poco dopo Halloween, insomma, li salvano dal rapimento, perché dovete sapere che, appunto, che nella notte delle streghe vengono utilizzati spesso i gatti, e quindi sì, loro cercano di salvarli. E anche lungo tutto il mese, appunto, secondo le stime dell'osservatorio, almeno 30.000 gatti neri vengono uccisi per vari motivi. E 15 milioni di italiani, pare, ogni giorno alla vista di un gatto nero fanno gli scongiuri, mentre nell'antico Egitto il gatto nero era considerato portatore di fortuna. Sì, le famiglie, certo, che possedevano un gatto nero si ammalavano meno. Ricordiamo Sekhmet, la divinità del gatto egizio. Mi spiace, egizia, non, sì. Sì, sì. Non conosco Sekhmet, comunque salutiamo Sekhmet. Te la presenterò quando passiamo da Dino, sì, poi. Giusto. E quindi semplicemente, appunto, è auspicabile, dice l'Aida o Aida, che attraverso una forte presa di consapevolezza le persone si rendano conto di quanto poco senso abbiano le superstizioni. Non sono i gatti neri a portare sfortuna, ma l'ignoranza, ecco. Questo è vero. E comunque faccio notare adesso, forse è un caso, ma Aida, per l'appunto Egitto, siamo casuale, questi sono segnali, sono tutti segnali un po' magici, un po' mistici, eh? Sì, va, sì, bene, sì. Bene, che diciamo? Mandiamo un pezzo? Mandiamo un pezzo, un'altra notiziola. No, vabbè, dai, direi che possiamo mandare anche un pezzo. Mandiamo un pezzo. Sì. Anche perché fra poco vi annuncio che c'è una rubrica che tutti amate. Sì, di tra più. Qualche minuto partiremo sicuramente, sì, con novità assolute. Novità assolute. E quindi la introduciamo con questo pezzo. Questo pezzo è di un gruppo italiano che si, insomma, degli anni 90, mi sconosciuto, però secondo me sono validi, è giusto che ne riscopriamo. Questo, sentiamo, pezzo si intitola Aria, dell'Interno 17. Mi sono chiesto perché di tanto inutili se della mia serenità. Bene, amici, dunque il 17, vi ricordo Interno 17, questo gruppo, quindi il 17 ci persegue. Oggi. Così come i gatti neri. Sì, esatto. Stiamo sfidando le forze del male. E questa era Aria, come vi ho detto, vi introduce l'argomento di cui stiamo parlando, ma prima vi ricordiamo le domande. Ricordiamo le domande che, le sono, ancora, che sono ancora valide per vincere il viaggio nel Valhalla per due persone, solo andata. Sì, non c'è bisogno di nessuno è mai desiderato di tornare al Valhalla. Nessuno è mai tornato dal Valhalla. Le domande sono: che cosa è sacro? E come conciliare l'esistenza del male con l'esistenza di Dio? È quella e di poi, oggi. Sì. Esiste un'etica atea o l'etica è soltanto legata alla religione e a Dio? Bene, e insomma, scriveteci a testacroceshow@gmail.com oppure aggiungete su Skype testacroceshow. O lasciate pure un commento sul blog testacroceshow.blogspot.com. Bene, bene. È il momento della novità assoluta. Avremo bisogno di un jingle. Sì, e lo farai tu registrando la tua voce. No, lo farò in diretta. Meglio, dai. No, la prossima volta abbiamo la promessa di Vince che ci farà il jingle novità assoluta. Assolutamente no. Partiamo pure con novità assoluta. Dunque, ma perché aria? Perché l'aria alla fine è la cosa che ci consente di vivere, no? Respirando viviamo. Certo. E questo è soprattutto vero se siamo dei bretariani. Chi sono i bretariani? Questo purtroppo è una traduzione pessima dall'inglese bretarianism, che significa, insomma, respirarianismo, direi. Sì. E chi sono i bretariani? Sono coloro che pensano che si possa vivere anche soltanto respirando l'aria, senza quindi mangiare e senza bere. Ecco. Poi ci sono delle sottoscuole che ritengono che invece sia necessaria anche la luce, non solo l'aria. Ora, ovviamente, come è noto, la pratica del digiuno è presente in tante tradizioni, tante culture, quella induista, ma anche quella cristiana, insomma, sì, non è solo legata alle visioni mistiche, no? All'ingresso alla purificazione, l'ingresso nel mondo degli spiriti. Sì, sì, o comunque anche proprio pratiche di purificazione, di rituali, di ascesi, anche, sì, insomma, sì. Anche. Però ora qui parliamo di digiuni, mentre qua invece si parla di poter vivere indefinitamente, a tempo indefinito, senza mangiare. Mm. Adesso però vediamo una piccola branca del bretarianismo molto specifica, perché ci sono tantissime sottoscuole. Noi vedremo il movimento fondato recentemente da Wiley Brooks, esattamente negli anni 80. Dunque, Wiley Brooks chi è? Intanto diciamo che nel 1981, nello show statunitense That's Incredible, cioè È Incredibile, in cui vengono fatti vedere fenomeni da baraccone, sostanzialmente, vabbè, da baraccone lo dico io, in realtà sono fenomeni degni di nota, lui, pesando soltanto 60 kg, dimostrò di poter sostenere un bilanciere che pesava 435 kg. E questo, insomma, è già notevole. Però, da questa notorietà, probabilmente ha deciso di continuare a essere conosciuto per altri aspetti, cioè quello del bretarianesimo. Lui in varie interviste ha affermato di essere stato bretariano per vari anni. Ecco, poi ha smesso? No. Questa, insomma, sono interviste vecchie. Attualmente sono circa 30 anni che lui è bretariano, almeno questo dice nel suo sito. E dice che, insomma, non solo è bretariano, ma quando è in un ambiente non inquinato né atmosfericamente né elettricamente, riesce a dormire soltanto 1-7 ore alla settimana. Però, perché questo, insomma, stile di vita gli consente di stancarsi meno. Attualmente ha 74 anni, però tuttora insegna l'ascensione potenziata, che lui definisce, ha un piccolo gruppo di persone qualificate, non si sa quali sono bene le qualifiche, ma lo scopriremo forse dopo quali sono queste qualifiche, e non sono proprio... Io ho un po' paura, però non so se voglio scoprirlo. Va bene, dunque, cosa dice lui? Che c'è una Earth Prime, cioè una nuova Terra, che è situata nel mondo della quinta dimensione, è un mondo dove non ci sono vibrazioni di dolore e di paura, senti tantissimo amore, pace, gioia, e una gioia che comunque in questo mondo tridimensionale puoi soltanto sognarti. E il suo obiettivo, dice lui stesso, è popolare la nuova Terra con più persone possibile prima del 20 marzo 2013. Ecco, il che significa fare più proseliti possibile. Sì, sostanzialmente. E dunque, ha avuto anche delle vite precedenti, questo, insomma, come al solito... Non mi stupisce. Questo ricorre. Non mi stupisce, sì. Per sì, avere sì, un po' di lustro, dice che ha avuto vite precedenti. Se vuoi puoi leggercene qualcuna sua. Ma sì, per esempio c'è Zeus, Enoch, Gesù. Sì. Esatto. Giovanni Battista, San Francesco Elia, d'Assisi, ma anche Adamo, faccio per notare quello che ti è sfuggito, Adamo, William Mulholland, sì, che penso, vabbè, non so chi sia, però c'è Joseph quello Smith, del film di David Mulholland Spera, Drive, esatto. Giusto, lui. E dunque, poi una cosa interessante, nel suo sito in bacheca c'è questo messaggio che insomma va letto, perché ci spiega anche perché prima del 20 marzo 2013 lui vuole raccattare più persone possibili. Leggiamolo. La data dell'ascensione del 21 dicembre 2012 è stata spostata al 24 maggio 2011. Comincia il nuovo mondo. Per sopravvivere alle energie degli ultimi passaggi nel processo di ascensione che avverrà durante l'equinozio di marzo 2013, l'umanità deve prepararsi per quel giorno. È necessario rimuovere tutte le energie negative del karma che potresti aver accumulato, perché queste energie non possono essere portate in una dimensione superiore, Terra 5D, o a una vibrazione superiore. Se non hai cancellato queste energie dal tuo corpo, l'impatto delle energie che arriveranno durante l'equinozio di marzo 2013 distruggeranno quelle energie negative, e nel farlo anche il corpo che le ospita sarà distrutto. Quindi è fantastico, abbiamo un'altra intanto profezia di fine in un certo senso del mondo, e sempre legata al 2012 in un certo senso, però è stato un anticipato addirittura, perché bisogna prepararsi con insomma un bel anticipo. Ma è già passata però. Sì, infatti. No, ma questa è la data che lui dice, è la data in cui bisogna cominciare, quindi ormai noi non siamo più in tempo. Ok. Quindi nel 20 marzo 2013 verremo distrutti, imploderemo, a meno che non abbiamo, insomma, già il karma pulito. Questo magari, insomma, casualmente abbiamo già il karma pulito e ci salveremo tutti, chi lo sa. Bah, chissà. Beh, direi sì. Andiamo avanti dopo un pezzo, no? Uno stacchetto musicale, esatto. Questi sono i The Used. Il pezzo è Empty With You, dopo, dall'album Artwork. Sì, e dopo parleremo degli insegnamenti di William Bruce, come fare a purificarsi e varie altre cose molto utili. A dopo. Bene, Bentornate cari amiche e cari amici di Radio Cage, stiamo parlando di Breatharianism su questo sì. Testo Croce Show. Un'ottima pronuncia. Grazie. Sì. Ricordiamo, è una la credenza di poter vivere senza mangiare né bere, ma soltanto assumendo nutrienti dall'aria. Ecco, dunque, o dalla luce. O dalla luce, in questo caso Ali Brooks, precisiamo, che dice che basta l'aria e qualcosa in più che vediamo fra poco. Mm. Dunque, intanto, quali sono gli insegnamenti? Capiamo un po' la struttura di questa credenza. Secondo Brooks, siamo tutti parte di un'anima più grande e c'è un complotto da parte delle vecchie religioni per farci credere che noi nasciamo e moriamo. Ma in realtà, su questo pianeta, che è chiamato Atlantide, solo che ormai ce lo siamo dimenticati, un tempo si viveva ad un livello vibrazionale molto maggiore di quello attuale. Però questo è stato occultato per secoli, appunto, da questi complotti fatti dalle antiche religioni. Dannati complottismi. Sì, ci rovinano proprio l'esistenza. Però il tempo dell'ascensione è vicino, dice Wally Brooks, e bisogna prepararsi. Ad esempio, come ci si prepara? Facendo una meditazione di 30-120 minuti al giorno, ripetendo alcune parole magiche che ci leggerà Vincenzo, che ha dimostrato di avere un'ottima pronuncia. Ma sono impronunciabili, cioè... Allora, ci proverò. Uno, Jot Niranjan. 2. Onkar. 3. Rarankar. 4. Sohang. 5. Satnam. Satnam ha qualche assonanza col sanscrito? Sì, secondo me. E comunque vanno ripetute in questo esatto ordine. E se per caso vi scordate come si pronunciano, sì, telefonate a Wiley, cioè proprio la possibilità di chiamarlo, e lui ripeterà dal vivo queste parole per insegnare la giusta pronuncia. Fantastico. Di questo ho la prova, perché proprio... Hai provato a chiamare? No, non esattamente, però ho trovato un video in cui viene registrata la chiamata fatta a Wiley Brooks, che ripete proprio in diretta per svariati minuti in ordine queste parole. Beh, ma inoppugnabile. Beh, non è una prova inoppugnabile, però insomma è Direi che potremmo chiamarlo in diretta, una delle prossime puntate. Direi che sarà contento di rispondere, secondo me. Ma cosa dice anche Wiley Brooks? Questo è incredibile, perché basta l'aria, no? Eppure lui dice che è meglio avere, quando si fa questa meditazione, un po' di Diet Coke nel sangue. Ma non una qualunque Diet Coke, però proprio la Diet Coke del McDonald's. Ora, scusate, se non voglio fare assolutamente pubblicità al McDonald's, anzi... questa la fa lui, però. Dice che se ne può bere quanta se ne vuole, nelle bottiglie però da un litro, oppure, se andate dal McDonald's, nelle bottiglie di plastica, solo quella con caffeina, però, eh. Dunque, inoltre, da mangiare si può mangiare un panino con un doppio quarto di libra. Ma scusa, stavamo parlando di breatharianesimo, no? Cioè, certo, vivere solo con l'aria, no? Eppure nel suo sito si trova che quando si fa questa meditazione può essere vantaggioso nutrirsi di questi cibi. Capisco. Il panino con doppio quarto di libra, quindi una cosa immensa, immagino, con formaggio, proprio di McDonald's. E provare a mangiare almeno un pasto al giorno di questo tipo per cominciare. Ora... ci sono stati degli studi, fra cui alcuni sono riportati in un bel film documentario, Super Size Me, in cui si mostra che mangiare tutti i giorni in questi fast food, precisamente in questo, può avere delle conseguenze molto gravi sulla salute. E forse lui è un accanito frequentatore del McDonald's. Ma lui è un breatariano, però comunque, se fa queste meditazioni... Continuiamo, dice, è consigliabile mangiare da McDonald's ogni volta che si può, addirittura. Tutti i prodotti di McDonald's sono fatti di proprietà protette da portali spirituali ad alta energia appartenenti alla quinta dimensione. Ecco il motivo per cui si può anche combinare, questo è un consiglio, perché a volte magari i McDonald's locali non hanno il panino che lui consiglia, quindi lui dice, potete anche combinare un panino da 2/4 di libra con un cheeseburger per creare un doppio quarto di libra. Vedi. E così aver salva la vostra meditazione. Aver salva l'anima. E mi raccomando, nota importante, sempre dal suo sito, quindi non è che me lo sto inventando io. Non bevete acqua o altro e non mangiate frutta e verdura durante questo regime. Quindi proprio salutismo. Sì, proprio salutismo a palla, direi. Sì, sì. E ora, qual è il motivo di questo strano, dieta, sì, che va contro al breatharianismo, che lui promuove sempre, cioè poche frasi prima lui lo promuove e poi poche frasi dopo ci sono questi consigli assurdi. Perché? Forse perché nel 1983 Wiley fu visto che lasciava un fast food di Santa Cruz con uno Slurpee, che penso sia un milkshake, sì, frullato, dà l'idea, un hot dog e patatine fritte. Ora disse, ha intervistato, che ogni tanto rompe il suo digiuno con cibi trash, cibi spazzatura, insomma, perché noi siamo immersi nella cultura trash e quindi mangiarne aiuta a riequilibrarsi. Non fanno grinza. E poi cosa dice? Appunto, c'è una pagina intera sul suo sito che dice come la Diet Coke sia luce liquida, addirittura la chiama luce liquida perché la somma dei materiali di cui è composta, della quantità e dei bicchieri in cui viene servita in quel famoso fast food, rende un alimento a 5 dimensioni. Vabbè, direi che chiudiamo con una simpatica chicca. Sono cose consigliate sul suo sito. Ad esempio c'è il workshop dell'immortalità, sono dei corsi. Per partecipare a questo corso devi poter dedicare 5 giorni a viaggiare in posti speciali a 4 angoli del mondo. Il corso include una visita alla Earth Prime nella quinta dimensione, nel tuo corpo fisico, se sei pronto. Da novembre 2011 il costo del corso è di $1,000,000 americani. Urca! E precisato, nessun rimborso. Ah, perché ecco, comunque... giusto, sì. E poi un altro bel prodottino è l'Elisir degli Dei. Questi sono i due prodotti che sono pubblicizzati nel sito. L'Elisir degli Dei, l'acqua usata in questo prodotto sgorga dalla leggendaria fontana della giovinezza e immortalità e nel giardino dell'Eden, situato nella quinta dimensione alla fine della strada gialla. L'energia è legata a un ben noto mix proteico, ben noto, ma lui non lo dice ovviamente, cioè, perché se no lo farebbero tutti. Se sei pronto lo sai. Comunque ha la consistenza di un drink proteico, quindi suppongo sia acqua e l'acqua di scolo dei ceci, insomma. Sì. Il costo è di soli $1,000 per boccetta, più 50 per la spedizione. Le boccette sono piccole, preciso. È modico, vabbè, si sì. può fare. E vabbè, 50 per la spedizione, quindi poca roba. Sì. Il prodotto funziona meglio in concomitanza con le 5 parole magiche. Sempre una nota importante qui. Poiché ci sono forze negative mirate a interrompere il flusso di aiuto e informazioni, non posso dire di più sul prodotto. Se non senti che ciò che dico è vero, non comprarlo. Questo è scritto molto in piccolo in fondo alla pagina. Probabilmente gli hanno detto che non poteva... cioè l'hanno fatto togliere delle cose che c'erano scritte perché magari incoraggiavano a farselo da sé, è una cosa magari che fa male, magari sì, sono anche prodotti chimici, quindi così ha detto questo lui. Comunque tutta questa roba va giù meglio con un bel panino del Mac, eh? Sì, anche secondo me. E beh, direi che ci sentiamo un pezzo, poi concludiamo le ultime cose su questa religione e passiamo ad altro, perché alla fine Wiley Brooks ci ha un po' stancato, sì, con diciamo i suoi McDonaldismi. Bene, questa è One Vision dei Queen. Bentornati cari amici di Radio Cage e di Sesto Croce Show. Dunque, questi erano i Queen, fantastico pezzo. Sì, una visione. Una visione, una visione che penso abbia avuto anche Wiley Brooks quando ha creato sì. il suo insieme di bislacche credenze e regole di vita. Bislacche, diciamo così, sì. per non dire di peggio, vabbè. Però ti ricordo che sollevava 460 kg, sì. Un uomo di 60 kg. Effettivamente è meglio non averci a che fare. No, vabbè, però... Passiamo a qualche notizia dal mondo, che ne dici? Beh, direi di sì, dai. Egitto, proteste ieri, cioè l'11 novembre, questa è una notizia del 12 novembre, contro la raffigurazione del profeta Maometto in una recente copertina del settimanale francese Charlie Hebdo. Questo settimanale satirico aveva fatto una copertina in cui Maometto aveva un fumetto che diceva 100 frustate se non muori dalle risate. Sempre queste satire su... Su? Ma tu pensi che la satira sia così, una cosa innocente, ma in realtà la sede di questo settimanale era stata proprio incendiata da fondamentalisti islamici, insomma. Stiamo parlando di una rivista francese, quindi... Sì. Non di un qualche sperduto paese, non so dove, insomma. Capisco. E il sito internet del giornale è stato attaccato da hacker islamisti turchi. Ecco, Charlie Hebdo, pirati, quindi ancora, tornano ancora una volta, tornano pirati. I pirati probabilmente con gatti neri, sì, sulle spalle. Charlie Hebdo ha risposto qualche giorno fa con un'altra provocatoria copertina dove un vignettista e un musulmano si baciano col motto "l'amore è più forte dell'odio", che ci risuona un po' a noi in Italia, no? Questo motto, qualcosa. Sì, sì, sì. Purtroppo sono brutti ricordi. Sono brutti ricordi. Il, sì, vignettista raffigurato è Bauro, ricordiamo. No, non credo, no. Però sarebbe stato bello se lo fosse, sì, stato. E, comunque, appunto, proteste in Egitto per questa ultima raffigurazione. Giustamente, giustamente, anche perché in Egitto è la patria dei gatti, ricordiamo. Giusto, quindi, giusto, proprio torna tutto, torna un gatto tutto, che si, sì, morde, sì, la coda. Sempre in tema di baci gay tra rappresentanti, insomma, di religioni, Repubblica rende noto negli ultimi giorni che è partita la nuova campagna del marchio Benetton. Lungo Ponte Sant'Angelo, vicino a Castel Sant'Angelo, non lontano dal Vaticano, è stato srotolato stamattina, cioè qualche giorno fa, uno striscione con l'immagine di un fotomontaggio che mostra un bacio tra Papa Benedetto XVI e Ahmed El Tayeb, imam della moschea di Al-Azhar al Cairo. Ovviamente penso ci siano state delle, abbia suonato Benedetto XVI, no? Il Vaticano probabilmente ha detto qualcosa. Beh, sì, in effetti c'è, mi è arrivato proprio adesso un'ansia, no? Ecco, un'ansia quasi. Sentiamo. Che ci dice che la reazione dura del Vaticano non si è fatta attendere. Padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, ha espresso decisa protesta per un uso del tutto inaccettabile dell'immagine del Santo Padre, manipolata e strumentalizzata nel quadro di una campagna pubblicitaria con finalità commerciale. Per il religioso si tratta di un uso improprio dell'immagine del Santo Padre, di grave mancanza di rispetto per il Papa, di un'offesa dei sentimenti dei fedeli, di una dimostrazione evidente di come nell'ambito della pubblicità si possono violare le regole elementari del rispetto delle persone per attirare attenzione per mezzo della provocazione. Ha ventilato quindi eventuali azioni legali per garantire una giusta tutela del rispetto della figura del Papa. Benetton, ah no, Benetton è il Papa, ah no, no, no, non è il Papa. No, Benetton XVI, pensavo, no. Dopo le critiche ha ritirato la pubblicità. Questa è... Mi dispiace tantissimo, era un'idea fantastica. E ricordiamo che l'uso improprio è perché, cioè, nel senso, il Papa non stava baciando quella persona ma un'altra, e quindi si è offeso perché l'hanno fatto un fotomontaggio, in realtà stava baciando un'altra persona sì. Esatto, che poi non si sa, sono affari suoi, sono per la privacy. Giustissimo. No, comunque veramente, voi che ne pensate, amici ascoltatori? Sappiamo che ci ascoltano anche molti credenti, quindi... Ah, a proposito, ci scrivono che nel trilionesimo giorno Dio creò gli abbracci ed erano bellissimi. Homer Simpson ce lo dice. Ma senti, c'è un'ansia di Simpson. Sì, che ci ha portato un gatto nero. Non lo so, però così mi è giunto su Skype. Grandissima frase, direi. Vabbè, salutiamo anche Jacopo che ci sta ascoltando, che ci segue. Salutiamo anche Paola. Salutiamo Paola, ciao Paola, grazie. E un'ultima notizia: Verona, prete vuole posto auto riservato perché devo fare esorcismi. Monsignor Gino Oliosi, prete di Santa Toscana a Verona, ha chiesto al sindaco Flavio Tosi di riservargli un parcheggio adiacente alla sua chiesa un giorno al mese, perché ogni secondo martedì del mese praticherà degli esorcismi e non vuole rimanere senza posto macchina. La richiesta al sindaco è stata però respinta. Questa è una notizia del 12 novembre. Tosi è una persona con gli attributi. Con gli attributi, sì. E tra l'altro non si è fatta attendere la risposta di Pontifex, che dice, appunto, sullo squallidissimo sito degli atei nostrani, ha preso in giro l'esorcista di Verona Don Gino Oliosi, il sindaco non ha ritenuto giusto concedergli il posto macchina, e gli atei ne hanno approfittato per i classici commenti crudeli, eccetera. In realtà un sacerdote esorcista dovrebbe non solo ricevere un posto parcheggio macchina, ma anche una medaglia. Beh, certo, anche secondo me. Davvero? Sì, sì, assolutamente. Anche perché se altrimenti il posto viene dato, ad esempio, insomma, al diavolo stesso. Hai ragione. Cioè, è una cosa anche metaforica, no? Cioè, hai il posto macchina per l'esorcista, altrimenti c'è il posto del diavolo. Non so cosa sto dicendo. Sono posseduto. Aiuto, chiamate un esorcista. Bene, facciamo? Diciamo un'altra notiziola o mandiamo un pezzo? Una veloce, dai. Una notizia flash? Una notizia flash è che, dunque, è successo nelle ultime settimane, nell'Ohio, sono state tagliate le barbe e i capelli di molti Amish. E questo è una cosa strana. Addirittura, proprio pochi giorni fa, un figlio ha tagliato la barba di suo padre. Questo... è una cosa che secondo me è inspiegabile. Ricordiamo, gli Amish sono una piccola setta cristiana che appunto porta lunghi capelli, lunghe barbe, vive con stili molto sobri, quasi come se fosse nell'Ottocento ancora, si spostano con carrozze. E sono stati colpiti da questi attacchi. Sconvolgente. Sì, questo perché io la capisco, Bibbia... capiamo bene, perché noi siamo dei portatori sani di barba. Sì. Lo siamo stati, quindi siamo molto vicini agli Amish. Esatto. Oggi 17 novembre ricorre l'anniversario della nascita di Möbius, che è l'astronomo e matematico che ha inventato il compleanno, sì, però naturalmente è morto nel 1868. Ma ci ha lasciato il suo nastro. Ma ci ha lasciato il suo nastro, esatto. E poi anche auguri a Danny DeVito e Martin Scorsese, che compiono rispettivamente 66 e 68 anni. Esatto. Quindi un nano che se ne va e un nano che compie gli anni. Bueno, abbiamo già parlato troppo di nani. Anche, però, ricordiamo anche Jeff Buckley, grande cantante, musicista, grande voce, che appunto nasceva in questo giorno nel 1966, e lo ricordiamo con un pezzo dall'album Grace. Il pezzo siamo sicuri che vogliamo ricordarlo? Non lo ricordiamo? Scordiamocelo. Beh, no, ce lo ricordiamo. Però intanto vorrei dire, prima abbiamo parlato di un grandissimo Möbius che ha dato lustro alla scienza. Ricordiamo che in questo giorno, nel 1494, se ne andava il grandissimo Pico della Mirandola. Ricordiamo che ha ispirato il personaggio di Pico dei Paperis, questa è la cosa, sì. L'unica cosa che so. Ma non solo, era anche uno spiritista, un occultista, ci sarebbe molto era anche da molto spiritoso, molto spiritoso. Ma sì. Dunque, dicevamo di Jeff Buckley, sì. Quindi direi che ci sentiamo. Facciamo partire questo pezzo. Dall'album Grace, Last Goodbye. Grazie a tutti. Allora. Sì. Ecco. Grande Jeff Buckley, grande voce. Sì, sì. Bene, andiamo avanti con qualche notiziola. Sì. Dunque, questa flash, poi passiamo a, insomma, alle segnalazioni di eventi. Dunque, è stata una giuria di Miami, ha condannato simbolicamente, perché queste cifre sono sempre simboliche, a 100 milioni di dollari, però, addirittura. Simbolici. Simbolici, un prete cattolico che era stato accusato di abusi su ragazzini per vari anni. E questa, insomma, diciamo, è una delle più alte richieste di risarcimento mai avvenute nella storia, addirittura, a carico di un solo uomo. Ah, però. Va bene, dai, chissà poi come andrà a finire. Chissà come andrà comunque. A finire, sì. Ovviamente non potrà pagare, quindi... Naturalmente. Sì, cioè, brutte storie. Sì, quindi sì, usciamone sì. Parlando di qualche evento lieto che potrete andare a sentire nella prossima settimana, invece quella che ci aspetta. Cominciamo con una breve segnalazione di una conferenza scientifica mercoledì 23 novembre alle 17 all'auditorium del CNR di Pisa. Il professor Leonida Gizzi parlerà di fusione nucleare. Vinceranno le palline o le ciambelle? Bellissimo. Sembra interessante, perché appunto le domande... Ma è egiziano? Insomma, Gizzi, mi ricorda Gizza. Un po' sì. Le domande a cui si risponderà sono: cosa lega fusione e neutrini? Come può un laser accendere e controllare la fusione? Come avviene all'interno di una stella? Avremo energia sicura della fusione nucleare? E quando? Ecco, quindi molto interessanti. Sì. Passiamo invece a qualche cosa un po' più piccante. Ad esempio, al Palazzo dei Congressi di Bellaria di Rimini, o Bellaria, via Lungofiume... Bellaria dove ci sono i bretariani. Esatto, i bretariani italiani. Via Lungofiume Uso numero 1, Bellaria Igea Marina, appunto provincia di Rimini, dal 13... Tutte Riccione, Rimini, sempre questi eventi. Sì, è vero, sono tutti in quella zona, cioè, lì. Nella patria della vita giovane, della discoteca. Ma invece... è anche la patria del... Non so nemmeno come dirlo, insomma, comunque. Sabato 19 novembre 2011, per la prima volta in Italia, Mabel Katz. Se desideri scoprire il segreto dell'Ho'oponopono, vieni a Rimini. Però, cos'è la tecnica dello Ho'oponopono? No? Se vuoi apprenderla, non puoi perdere questa straordinaria opportunità. Questa antichissima tecnica hawaiana ti donerà gli strumenti necessari per prendere decisioni libere e indipendenti, risolvere i problemi in maniera semplice ed efficace e soprattutto senza il supporto di qualcuno o qualcosa. Ma non bisogna andare al corso. Vabbè, dopo essere andati al corso, lo fai da te. Ho'oponopono, la via più semplice per successo, salute e relazioni appaganti. Ma abbiamo scoperto un disclaimer, in righe piccole. Sì, dunque, allora, Mabel Katz, Your Business Incorporated, The Foundation, eccetera, tante altre cose. Come pure la divinità. Come pure la divinità in persona e l'io, non garantiscono che la tecnica di liberazione da stress e risoluzione dei problemi conosciuta come Ho'oponopono, che comprende ma non solo tutte le meditazioni, visualizzazioni, ordini, purificazioni, eccetera, eccetera, sia in grado di produrre risultati specifici o desiderati in qualsiasi momento. Questo è il foglio illustrativo, praticamente, sì, esatto. Ho'oponopono. C'era anche un cartone animato, ricordo da piccolo, sull'Ho'oponopono, mio Ho'oponopono, secondo i cavalli. Sì, è vero, lo guardavo sempre. appunto, le prove della tecnica dell'Ho'oponopono dipendono dal singolo individuo, perché ognuno può dimostrare o confutare il potere di Ho'oponopono su di sé. In pratica, voi andate, date 200 euro di contributo volontario a Mabel Katz, poi insomma, e moltiplicatevi. Sì, forse si divertono di più. Va bene, all'Hotel Europa a Bologna. Hotel? Sì, che vabbè, perché negli hotel ci sono sempre i convegni, no? I corsi. Bologna, corso intensivo teorico pratico di Flower Message. Messaggio floreale. No, massaggio. Ah, massaggio. 19 e 20 novembre, 480 euro. Novità assoluta nel campo del massaggio, il Flower Message nasce dall'unione di acupuntura, ayurveda, massaggio metamorfico e tecniche cranio sacrali. Piacerà a Scilipoti. Piacerà da morire. Non so se sapete, ma è un acupuntore anche. Sì, sì, tra l'altro. Sempre all'on famigerato Hotel Conchiglie di Riccione, 187 euro di contributo volontario, richiama i tuoi angeli, prendi parte a un seminario illuminante con Doreen Virtue, una delle più grandi esperte al mondo sugli angeli, ti metterà in contatto con angeli e arcangeli per aiutarti a vivere una vita più sana e più felice, saranno un'esperienza diversa e profonda grazie all'energia degli arcangeli, puoi metterti in contatto con l'arcangelo Raffaele, con l'arcangelo Michele e con l'arcangelo Raguel e con tutti gli altri angeli. No, scusa, l'arcangelo Gabriele no? No, non è menzionato. Non so perché. Manderò un esposto. Allora, Doreen Virtue, può avere Doreen Virtue. E poi c'è a Fucecchio, sabato 19 e domenica 20, il convegno 2012, la fine e l'inizio di un nuovo mondo, dedicato a enigmi, misteri, ufologia, contatti extraterrestri, complotti, viaggi spirituali, storie e filosofia alternativa. E chi più ne ha, più ne metta, aggiungerei. Esatto, esatto. E come si chiama questa associazione? ARCA, dici tu il significato, perché io ho paura di dirlo. È un acronimo. Sì. L'acronimo delle parole armonia, ricerca, conoscenza e fin qui ci si può stare. E alieni, sì. Perché la mancava, quindi alieni, ce li mettiamo. E, insomma, farà tappa nelle più importanti città italiane con relatori russi che parleranno di archeomisteri, spiritualità, eccetera. Alcuni titoli degli interventi: Men in Black dal futuro, oppure Chi è davvero Barack Obama, oppure Interferenze Men in Black dal futuro e dopo Barack Obama. Chi è davvero Barack Obama mi piace. Un po' costamento. È fantastico. Sì, Obama è un Man in Black. È un Man in Black, sì, dal futuro. Interferenze aliene, alieni tra noi e dentro di noi, idee delle antiche religioni e così via. Insomma, quindi c'è un po' weekend, di tutto, ve la potete spassare. Ve la potete spassare, un weekend pieno di appuntamenti. Se andate a Rimini e Riccione, quindi avete insomma un sacco di occasioni, ricordiamo, ma insomma anche se non ci andate in Toscana, Fucecchio, sì. Ricordiamo Fucecchio in Toscana perché ci seguono da tutta Italia, magari giusto, non lo giusto, sanno. Giusto, anche dall'estero, sì, quindi provincia di Firenze. Sì, esattamente. Siamo arrivati in chiusura di questa mirabolante quarta puntata. Beh, direi che vi ricordiamo le domande per il concorso. Sì. Ad esempio, la prima domanda: che cosa è sacro? E poi come si concilia il problema dell'esistenza del male con l'esistenza di Dio? E bisogna credere in un Dio per avere un'etica? E mandateci le vostre idee, le vostre risposte a testacrocesshow@gmail.com. Oppure ci aggiungeteci su Skype a Testa Croce Show, il nome da aggiungere. E infine controllate ogni tanto il nostro blog testacrocesshow.blogspot.com. Ci ritroviamo giovedì prossimo alle 19 come sempre. Direi che è una buona idea. Cascasse il mondo. Ringraziamo Federico anche per questa puntata. È stato con noi, ci ha ascoltato con devozione quasi. E via alla sigla, vi salutiamo. Ah, salutiamo You Are Talkshot che ci segue sempre. Salutiamo You Are Talkshot, sì, diremo poi chi è. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. A tutti. Ciao.